mi ricordo che mia sorella, che era cartesiana de men de mi, intendo guerra, del 44, mio papà faceva il carrettiere sotto la tot, ecco, e veniva sempre qui il suo capo, ogni tanto veniva qui a casa, e che portava le caramelle a mia mamma per zuccherare gallata a mia sorella, e quello mi resta impresso. Come mi ricordo sempre, quando gli aerei veniva a mitragliare a bombardaggio per il là, mio fratello andava sul quart, a guardare via, dice, fu adesso che vedessi me ne vodi in su e cavo gli occhi. E era i divertimenti quelli, perché se la scuola è sempre stata lì, quando che era jazz, che era tutti i putelotti che andavano di tasse su per la strada, dopo andava con quelle balote di autunno. Ecco, e i divertimenti erano quei. Dopo che aveva i cerchi a naso per le strade, come, insomma, come che faceva. Noi dei de ragazzi non avevamo proprio niente, no. La giornata della scuola, andavamo alle 8, venivamo a mesdì, e dopo dalle 2 fino alle 4. Poi dopo non gli deva tanti compiti come chi fa adesso, perché vieni a casa che poretti, non aveva neanche la voglia di respirare. Però l'era a scuola, l'era dura la scuola, perché era il maestro, erano i maestri che bisognava, mica come adesso che gli dà del tino, era il prete che aveva in chi che ti muoveva di quelle pacche sulla testa. No, no, per quella come scuola lei sempre sta, la questione che loro essere, stai abituati sotto i tedeschi, era tutta un'altra vita qui, eh. Era proprio la mentalità. Perché anche i genitori non erano mica come adesso, no? Se che rispondevi, poteva mica dire niente. L'era famiglia è così, ma tutte aveva tutte un ago, eh? Perché tutti avevano sotto chettin di campagna e allora qualcosa si poteva. Sì, no, l'era la miseria. Chi per le donne di Nag era solo le masere. Non era altro, no? Dopo bisognava andare fuori a servire, o da Milano, ma in Evanzo, non era che era. E poi dopo era l'albergo Penede che si faceva la stagione. Ecco, perché Penede e Zanella, che sempre stai. Dopo chi era il bar, invece dopo quando è che gli ha fatto su, ma gli ha fatti su negli anni 50, dopo finì la guerra. E dopo com'è cambiata anche nel tempo? Beh, dopo che venivano gli americani già si cominciava a cambiare, perché prima di tutto gli ha portato diversa roba, gli americani, la prima roba che gli ha portato i DD che erano pieni di pioci e tende guerra, e dopo gli ha cominciato già come lavori, gli ha cominciato, però dopo gli anni 50, dopo gli anni 60, sino che era sempre tutti, si stava tutti ben. Se ne va avanti, insomma, ecco.